davanti a te, perché no. È perfetto così. Va bene per il paura comunque. Cosa c'è di più bello al mondo? Sì, lo so. Raffaella Carrà è 100.000 volte meglio di Madonna. Chi è Madonna? Io non lo so, so chi è Raffaella Carrà. Gianna Nannini è la più grande artista rock italiana, ma anche dei maschi, no? Perché di femmine ce ne sono troppo poche, non vale, capito? In più, famosissima nel mondo, capito? E io ho paura a cantare davanti a lei, ma mi ha scritto un pezzo, ragazzi, super. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, il coraggio è un cielo aperto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, il coraggio è un cielo diverso. Cosa c'è di più vero al mondo? Cielo aperto, vivendo, come on, come on, come on.